qué hora? ¿Estás estudiando? ¿De domenica? Brutto segno! Perché resti impalato, Baldi? È una vergogna che te li assi domani. No, per carità, Baldi, non è il momento. Lui è il Baldi, ti conosce? Come sta? Beh, Nora parla spesso di lei. Sì, Nora parla spesso di tutto. Vabbè, l'ultima parola è sempre la sua. Sì, infatti, l'ultima che vai ad aspettarmi in macchina. Compatisci. Oggi uno dei suoi cavalli è arrivato quarto. Nora, io capisco che devo darti delle spiegazioni. No. Non sono qui per chiedere delle spiegazioni, no. E sono un modo come un altro per reagire alla crisi del che fo oggi. No, è la malattia del secolo. Che fai oggi? Prima bastava niente a divertirmi. Ma da un mese a questa parte mi annoio in qualunque posto, com'è? Nora, ti telefonerò e parleremo. Però adesso va via, non mi va che ci vedano insieme. Un mese fa eri più gentile. Appena ti chiesi l'appuntamento venisti. Però non tornare. Bel maleducato. Vuoi rovinare l'estetica della palestra? Dopo l'operazione mi guardavi in un altro modo, no? Comparivi agli allenamenti. Lo sai, io non avrei fatto mai un torto a tuo padre. Ci volle che mi mettesse alla porta per farmi capire quanto ero stato ingenuo. Certo, ci venni al tuo appuntamento. E dopo ti portai fuori. Ci tenevo a farmi vedere con te dopo. Ma che motivo avrei avuto per tornare? La rivincita me l'ero presa. E quando facciamo la bella? No, capitolo chiuso, Nora. Non abbiamo da vantarcene, né tu né io. Sì, adesso vai. Lo so. Barzilai ha un modo che potrebbe esasperare chiunque. E stai qui. Respira forte. Come quando lo facevamo in palestra, ricordi? Campione? Invecchio. Sì, è tempo di pensare all'avvenire, specialmente adesso che una ragazza della buona società si è data a te e ha deciso di sposarti. Vabbè, se ti riesci mettici un po' di entusiasmo. Ma Nora, è impossibile. Che direbbe tuo padre? Barzilai? Sì. Questo è tanto mio tutore. Ci serve ugualmente il suo consenso, non sarà facile ottenerlo, ti avverto. Ma non era tuo padre? Ma no! Si sposarono che io avevo 2 anni. Mia madre morì che ne avevo 8. Lo chiamavi papà. E allora, cosa mi costa? Ma non so più stare con lui. È un egoista, un pignolo, uno spinoccio. Mi circonda di gente insignificante. Appena vede che qualcuno mi piace lo elimina. E dove vai? E dove vieni? E con chi sei stata? Appena fa un viaggio mi rimette dalle sue. Allora, io non c'ho la lira. Vabbè, ma il capitale lo metterò io. Tu metterai la mano d'opera. Sono ricca, sai. Mia madre ha lasciato tutto a me. Però prima devo sposarmi. Sono le parole del testamento. Nora entrerà in possesso dei suoi beni al suo 21° anno, oppure prima, se si sposerà col consenso del tutore. Vedrai, sarà bello. Viaggeremo lontano. Io sono stanca di andare l'estate a Capri e l'inverno a Cortina. Voglio vedere il mondo anch'io. E ti rivolgi a me. E allora la tua l'unica faccia che mi va di portarmi dietro. Senti, Nora, tu sei bella, però la tua è una bellezza che non commuove. Si vede troppo quando svolgi un programma. Chi è lei? Una di qui? È più furba di me, sì. Scommetto che è vecchia! Ma io ti faccio querela. Per seduzione di minorenne. Daremo, se mi porti fuori, io grido a tutti che mi hai costretto tu a farlo e che volevi farmelo rifare adesso. Ma santo cielo, Nora! Mi sposi? No! E io prima, vai! Ti avevo pregato di restare in macchina. No, tu non vuoi sentirne parlare. Ma è una gran vergogna che degli esseri umani vivano in queste condizioni. Oh, ma questo Remo non ci vivrà più, vero Remo? Perché c'è lui? Ma quanto sono borghesi questi proletari! La colpa dell'ignoranza della massa ricade sulla minoranza che la permette e se ne serve. ma anche di ciò verrà chiamata a rispondere. Poi di un ragazzo di buonissima famiglia, afflitto dall'altra malattia del secolo. Mi vergogno di quello che ho. Mi manca quello che ho. Sì, non potreste discutere tornando a casa. Abbiamo tempo. Ecco dove ci ha portato la politica dei compromessi. È stato un delitto mortificare lo slancio del popolo, anzi, più di un delitto. Un errore. Oh, sì. E perché poi, per un malinteso conformismo. Poi dire. Barzilai sarà adesso, andrò a tornare tardi. Qui non si vede niente. E allora, che c'è la strada? Devo avermi fatto seguire. C'è l'altra scena. Sì, dalla cucina. Indicami dove è la strada, aspetto. Tu non mi hai visto. Sempre agli ordini, commendatore. Siamo soli? Sì, sì. E chi credeva di trovare? Dopo essere stato mio ospite per 90 e più giorni, faresti torto alla nostra amicizia se non mi ospitassi 10 minuti. Il rammendo è quasi invisibile. Non credi di dovermi qualche gratitudine? E perché? Perché mi ha fatto togliere un pezzo di pelle dalla schiena per attaccarmelo in faccia? Oppure perché quando non le servivo più mi ha buttato via come una scarpa vecchia? Hai il mento di un peso mosca. Un uomo non si giudica soltanto sul ring. Un pugilatore sì. Ah. E allora lei doveva chiudermi in palestra. Avvisarmi che quello è il mio posto, soltanto quello. E invece ha portato a casa sua. Si è vantato di me come di chissà quale fenomeno. E poi mi ha fatto capire a me, che venivo da dove venivo, che sopra me c'è un mondo felice, comodo, organizzato. Poi? No. A cosa devo la sua visita? Per una somma di circostanze che adesso sarebbe superfluo esporti, ho preso la decisione di mettermi in affari. Tra 3 anni scade una data piuttosto preoccupante per me. A questo aggiungi che da un pezzo non riesco più a scrivere. La causa è questa, dicono i dottori. Questo è l'effetto. La porta si è chiusa. O forse la mia epoca è finita, ma non ho nessuna intenzione di abbassare il mio tenore di vita. E così a suo tempo mi sono guardato intorno. Oggi come non mai, ma ancora per poco. Finché sarà ancora viva la fiamma della libertà, il mondo è tutta una fioritura di occasioni per chi sa coglierle. Parafrasando una definizione celebre, direi che un affare è un'idea che ha trovato dei capitali. Trovata l'idea, si trattava di realizzarla e io ho trovato i miei uomini. Naturalmente, non in Italia, o almeno non soltanto in Italia. Uomini che non tengono il denaro dentro la cassaforte, che fanno circolare le idee, che creano lavoro, che sanno infiammarsi di fronte a un'idea geniale. Perché questo non è un affare di milioni, di miliardi. Sai che cosa mi sono messo in mente di vendere? Una città. Questa città. Le 42, idea degna dell'artista che ero, lasciamelo dire. L'esposizione è dello Stato. Per lo Stato portare a termine i lavori nella condizione attuale sarebbe impossibile. Invece metti che una grande società internazionale proponesse di comprare tutto il materiale a cancello chiuso, per quale motivo lo Stato non dovrebbe accettare? Le forze che ho dietro le spalle credono nella ripresa dell'Italia, hanno tutto l'interesse a crederci. Per... Questo è un discorso che ci porterebbe lontano. Basti sapere che l'idea è stata presentata ed è appoggiata in altissimo loco. E che ne fareste? Qui sorgeranno grandi alberghi, stazioni industriali, studi scientifici, sale da giochi, case di spettacoli, un gigantesco Luna Park, ma anche istituti di cultura, musei, chiese, collegi internazionali. Qui un sogno di grandezza si è impietrato, la mia idea è di portare in vita questo sogno. Io vorrei creare un luogo che sia come un luogo di convegno per le elite di tutto il mondo, un aerofago della civiltà occidentale. C'è un ostacolo. Ah, c'è un ostacolo. Non mancherà chi cercherà di montare uno scandalo dalla cessione dei terreni. Occorre assolutamente che la notizia sia data all'ultimo momento per fare in modo che gli altri non abbiano il tempo di creare uno schieramento e che venga presentato come una decisione di interesse generale. E noi? Noi? È vero che quassù vivono 1000 persone? 1030. Anzi no, 31. Ieri sera è nata una bambina. È l'ufficiale di censimento? No, no. Ma hanno nominato responsabile del campo, se le interessa sapere. Mi interessa esattamente tanto che appena l'ho saputo sono venuta a congratularmi con te. Ecco, occorre che appena verrà dato l'ordine di evacuare l'esposizione, i tuoi 1000 rotti sloggino, senza fare domande, senza opporre resistenza, inutile esporti a quali speculazioni si presterebbero eventuali incidenti. Non tutta la stampa può essere controllata. E io che c'entro? Tu devi preparare il terreno e garantire che tutti si trasferiscano d'amore e d'accordo. Si trasferiscano dove? A Roma è piena di campi profughi, li smisteremo, si arrangeranno. L'importante è addomesticarli in modo che se ne vadano senza dare noi. E questo dovrei farlo io? Beh, sarei pagato, ce n'è per tutti. 100.000, va bene? 200.000. Quanto? 200.000 evacuazioni avvenute e altre 50 di premio se le cose vanno come devono andare. Quando lei venne per l'intervista, lei pensava già all'affare. Ma l'intervista era solo una ricognizione. Le foto del ragazzo mi sono state utilissime. Allora io non voglio entrarci. Ma tu butti la fortuna dalla finestra. Tanto ve ne andrete tutti ugualmente. No, lei dimentica che io ormai conosco le sue intenzioni. Ma mi credi così ingenuo? Tu non direi niente a nessuno. Non sarà lei che potrà impedirmelo. No, no. Ricordati del Vininale. Nei tumulti del luglio scorso un ministro è stato percosso da un dimostrante sconosciuto. La polizia avrebbe molto piacere a mettere le mani su quell'uomo. Non c'erano solo le foto dell'esposizione su quel rollino, eh? Se mi fa arrestare, parlo! Ah. Se parli, ti faccio arrestare. Se ne parla. Tanto ve ne andrete tutti, con le buone o con le cattive. 400.000. Se ne vada. Non sono i farabutti a rovinare il mondo. Sono i cretini. È lì. Ci mandano via. Da dove? Da qui. Tutti. E li ricominciano a costruire. Qui? Sì. È una società fondata da Barzilai per fare alberghi, musei. Non ho capito bene. E noi? E no. Si preoccupano soltanto che non ci siano incidenti. È venuto a offrirmi dei soldi moltissimi perché io convinca voi altri ad andarvene. Non dobbiamo lasciarci mandare via. Dove andremo? Hanno paura di incidenti. Raduna gli altri, spiega. No, se io parlo mi denuncia. State di minare. No, no. Rifiutare. Rifiutare di essere suo complice è tutto quello che posso fare. Ma come? Non sognavi di portare qua su tutti i profughi di Roma? Permetterà che anche quelli di qui finiscano nei campi, alla doppia sporcizia e alla miseria. Chiama gli altri. Avvisali. Per finire in prigione io? Che prove ha? Fotografia di Pippo. Forse non sono prova sufficiente. Noi possiamo trovare dei testimoni per dire che quella mattina eri qui, in fin dei conti, non hai commesso un delitto. Tu messo in ridicolo la polizia? Te li sei dimenticati i giornali? Cioè, non lo so come ho fatto a cavarmela, forse perché non ho più la bruciatura. Remo, ho il testimone che ci vuole. È uno del posto di polizia. Posso convincerla a dichiarare che quella mattina eri qui, all'esposizione. Che dici? È il brigadiere Tamburini. È tornato oggi. Io e lui facevamo qualche affare insieme prima che partisse. Sigarette, scatolame. Posso convincerlo. Con un testimone come lui puoi affrontare quell'uomo. Remo, mi ami? E me lo chiedo. Una cosa devo chiederti. Ma non pensare che sia per farti un rimprovero. No. Ripetilo davanti a me. Senti, lasciami andare. È lì, senti che cosa dice questo vagabondo. Avanti. Hai detto no che loro due sarà in te. L'hai detto sì o no? Se lo sanno tutti! Oddio, è lì che ho fatto. Perdona. Che vuoi? Lo chiedo io. Cos'è questa storia? Parla! Giù la mano! Parla, detto! Tu hai stufato! È vero che addosso la divisa. Questa qui domani la mando a prendere. E l'affare delle gomme te lo puoi scordare. No, no, no, no, Settimio, ho bisogno di quei soldi. Chiedili a lui. Devo continuare a pagare io se è lui che si diverte. Finita la cuccagna. Ti ho voluto bene prima di conoscerlo. Di che ti faceva comodo un poliziotto in famiglia. Settimio, farò tutto quello che vuoi. Ehi, di te mi ricorderò. Ti faccio le consegne. Ma dillo di raccontarti dove è stata stanotte. E dove sarebbe andata fra poche ore. Non è vero. Ti supplico di che non è vero. Stanotte? Sì. E tu... tu ci saresti tornata? Sì! Remo, ti amo, però cerca di capire. Lucia ha ancora pochi mesi di vita, io non volevo privarla di niente. Ho sempre vissuto per gli altri, mi è mancata la forza! Chi può pagare e chi no, ecco la differenza. Remo, vedevi una città là fuori! Il male bisogna fare. Allora ti vengono incontro, ti aprono le strade. Così è giusto, fare il male, guadagnare con il male e andare avanti. Ma siete rovinati, te lo dico io, siete rovinati. No, no, no, no! Fa qualcosa, signore! Non abbandonarci, insegnaci! Dio! Abbi paura di noi! Abbi paura! Ma... lungo treno. centrale, diceva di mandare dei rinforzi alle 42. Nora, torna a casa, ci vediamo alle 10. Io, il Boydi ci aspetta in macchina. Nora, io non ho niente da temere dalla polizia. E come la spieghi la telefonata? Ma non hai capito male. No, il Boydi ha già pensato a tutto, i vestiti sono in albergo. Nora. Sì, ragionevole. Non posso più andare tutto così. Puoi aspettarmi con la macchina? Sì. Nasconditi. Ti raggiungo appena posso. Da qua. Mezz'ora, vai. Con tre giorni di preavviso, non mi convinci. Parla piano. Abbiamo tentato di evitarlo, non ci siamo riusciti. Amen. Amen. Sì. Come mai sono stati così rigidi in comune? Perché tutta sta fretta? E sto campo Parioli con me, grande, piccolo. Era la piazza d'armi. Avranno organizzato per noi. Non lo so, Pio, forse mancherà la banda. Non scherziamo, Remo. Noi siamo completamente all'oscuro. Hai voluto far tutto da solo? Beh, potevi pensarci prima. E quando? Soltanto ieri sera ci hai detto dove siamo destinati. Sì, io ve l'ho detto appena l'ho saputo. Anche questo è strano. E non sono solo io che lo penso. Io voglio vedere con i miei occhi dove ci stanno mandando. Via bicicletta di Bart. In mezz'ora vado e torno da piazza d'Arte. Però non dirlo a nessuno, altrimenti qua scoppia il caos. Tanto lo sgombero prima di mezz'ora non comincia. E passando, dà una voce a quelli degli altri gruppi. Signori, sveglia! Professore! Beh, già ora? Quelli degli altri gruppi sono in piedi da un pezzo, forza! Ma è ancora buio. Bartali? Non c'è, mamma. Come va la schiena? Mi sento un po' riposata adesso, brucio negli occhi che non mi dà pace. Ma dove sta Bartali? Aveva promesso di tornare presto dalla festa di San Giovanni. Sarei andato volentieri anch'io alla festa di San Giovanni con Pippo, se non altro per togliermi il pensiero dello sgombero. Lì, riscalda un goccio di caffè, professore. È finito il caffè, ma... Remo, io spero che ci lasciano uniti anche là, credi possibile? Perché no, professore? E credi che anche a Campo Paglione potrò tenere delle reazioni? Ah, certo. Ma come cantano i galli, oh! E poi dicono che salutano l'anno. C'era un casolare sul caso, proprio dietro le linee, cantavano tutta la notte. Buongiorno alla comitiva. Sorella, buongiorno. Guardali. Ho visto il forno che apriva e mi sono fatto da un pezzetto di pane croccante come gli piace a lei. Grazie, signore. Riscatta qualche cosa a parte, ci ha dato freddo stanotte a San Giovanni e gli farà bene. Video, su. Dopo, sì, dopo. Quando dopo? Quando... Oh, oh! Dove sta la bicicletta? L'ha presa Dio. Fa da dove? La riporta subito. Tu prepara la tua roba intanto. Remo! Remo! Remo! Come devo fare con mia moglie? Quello ancora non è successo niente. Succederà, siamo nati tutti. Sì, ma mica siamo nati per strada. Sentissi come grida. Non ti preoccupare, la prima volta è normale. Ma dolori forti, quella non la possiamo trasportare così. E allora l'unica è lasciarla al Santo Spirito. L'ho detto io il conducente che fermi all'ospedale. Tu portala fuori, prepara i tuoi bagagli. Remo. Tamburini viene appena può. Però bada che c'è in aria qualcosa di strano, perché la Piera aveva un modo di fare che non mi è piaciuto per niente. Avete visto Pippo a San Giovanni? No. Ma dove sarà? Sì, sì, perdiamo altro tempo in chiacchiere. Così poi arrivano i camion e ci mettiamo le mani nei capelli. Beh, ci hanno dato così poco per il viso. Professore, l'ordine è che lo sgombero deve essere ultimato prima dell'alba. E chi li dà questi ordini? Chi mi dà uno spago? Il camion! È dato uno spago al professore. Ah, il tegalino del caffè. Ehi, Ellie, mi raccomando, il tagamino solo quello là, il caffè come lo facciamo? Signora, ma che sta facendo? Quando mette la roba, la deve mettere in maniera equiparata, in modo tale che la valigia si chiude automaticamente. Professore, che sta facendo? Professore, quando mette lo spago, deve fare il doppio nodo, o solo poi la valigia si lascia. Senti un po', ma tu perché non aiuti? Io? E che devo fare? Vieni qua. Guarda, dammi la doppia chiave, che mi è rimasto un po' di posto nella valigia. Oh, dico a te. Ma che c'è? Zio, Dio, tu. Lo prendo in casa. Il mio grande è andato in Belgio e mo il posto c'è stato. Mi portate via pure a lui dopo che mi è morta Lucia. Perché? Ma non l'ha tenuto sempre come se fosse mio. Non è per questo, è mia moglie che dice che non possiamo mandare tra un poverevole figlio di sua sorella Bonanni. Aisa! Di quante storie! Muoviamoci, là si sta benissimo! È vero, sorella. Mi zia ha insistito, dice che sono troppo giovane per vivere da sola, no? E vabbè. Vabbè. Oddio, io mi abiterò pure a questo. Oh, ma io verrò a trovare la spesa e poi... Due donne sole hanno bisogno di un uomo, no? Però quando ci torneremo mi dirai arrivederci, mamma. Vuoi? Sì, signora, sì. Le cose tue le possiamo caricare sul carrettino. Allora, siamo pronti? No, stiamo ancora indietro. Ci manca ancora tutta la roba della cucina. Vai, mamma, adesso penso io. Premo, ma la bicicletta mia. Guardali, dirò a Pio che te la lasci a casa. Qua si stava bene. Ce l'avamo organizzata. Vai, mamma. Signora, presto. Senza malinconia Tamburini, è stato qua Ma di che ti occupi? Chi ti ha chiesto niente? In 3 mesi non mi rivolgi la parola! Non puoi dire che abbia mai intentato un attacco a discorso! Ah no? E tutti quei sottintesi di prima, la bicicletta, Pio... Non dormivo, Remo! Non troverò niente di anormale, Pio, al nuovo campo! Mi sento colpevole quanto te delle tue azioni! No, ma non sentiti colpevole! Non lo siamo! Avevamo deciso! Sì, lo avevamo deciso! Quando non sapevo chi eri! Ti chiedevo di credere, nonostante me, alla prima cosa tua della tua vita! Anzi, dai... Ma avrebbe denunciato, sarei finito in prigione. Tu, piuttosto tu, perché non hai parlato? Non potevo ancora farti del male. Dio, come sono stanca. Dopo tanto tempo parliamo per dire questo. Per l'ultima volta. Era meglio se non parlavamo, da fatica inutilmente. Ma che può volere da te, una ragazza così? Può volere me? Remo! Non si ama quello che non si conosce! Ascolta! Grida! Sì, sì, lasciali gridare! Te prego, Remo! Falli restare! Tentate di che hai scoperto qualcosa! Interverrà la polizia! È anche interesse dei tamburini che non ci siano incidenti! Ma cosa fate? Potrebbe scapparci una bella promozione! Auguri a tutte e due! L'ho lasciato perché è morta Lucia! Sussurra, Remo! Eccolo! Mi dici che fine ha fatto mio marito? L'hanno visto venire da te e non è più tornato! Mi ha chiesto se poteva andare avanti a scegliersi un posto buono. Senti, ma non vedo niente! Faccia parlare me, signora, eh? Faccia parlare me. Remo, noi ci siamo rimessi a te, però consideriamo insieme un'ultima volta se è il caso di lasciarci portare come pecore da un recinto all'altro. Ma poi, la metà di voi se n'è già andata. Ah, sì, posso... sì, però lui non dice che se ci troviamo a questa vigilia... è perché non ci siamo fatti sentire abbastanza in comune. Non è esatto. No, Remo ha perso la voce per difendere i nostri interessi. Sì, ma se possa, Petto, stamannare. A Piazza d'Armi, al Campo Parioli. L'ho detto e ridetto! Ma lì troveremo posto! Sì, avremo una sistemazione provvisoria mentre costruiscono nuove baracche. Ma c'è davvero che le costruiscono, Remo? Il comune si è impegnato. Lo vedete voi stessi, per il trasloco ci hanno mandato gli automezzi del genio! Ma almeno al Campo Parioli avremo l'acqua, la luce, te lo dico per mio figlio che è appena nato! Ma ce la vedi l'acqua e la luce? No, qua c'è la parrocchia che dà la minestra, là! Calma! Remo dice che il governo... Il governo! Questa è casa nostra! Abbiamo fatto noi le baracche, abbiamo costruito noi le baracche, abbiamo coltivato noi il terreno! Adesso dicono che dobbiamo andare via! Io dico, ci dicano il perché! Ci dicano il perché e noi ce l'abbiamo. Oh, ci dicano perché! Sì, ci dicono perché. E perché ce l'hanno detto? L'esposizione deve essere sgomberata a causa dell'imminente inizio di opere pubbliche nella zona. Ma facciano le case per noi! Ma chi me lo dice perché le case non... Le case! La scuola! L'istruzione! Qualcuno ha visto niente? Questa è la seconda volta che Pio perde il lavoro quest'anno. Signora, le opere pubbliche significano che ci sarà lavoro. E ci sarà, ci sarà. Tanto va sempre peggio, vanno avanti i furbi, vanno avanti. Guardate Remo come sei pulito! Invece mio marito pensa alla politica. Io certi giorni si sbatterò la testa al muro. Noi non dobbiamo andarci. Io rimango con i bambini, voglio vedere chi avrà il coraggio di mettere le mani addosso. Ah sì, resto anch'io. Sì, restiamo, Remo. Noi restiamo. Volete restare? Sì. E allora proviamo a restare. Quelli del posto di polizia non vedono l'ora di menare le mani. Lo conosciamo, Tamburini? Lo conosciamo bene? Però l'importante è affrontare uniti questa prova. Vogliamo restare? Sì. E allora restiamo. Iniziamo a lasciare la roba alle gambe. Sì, e pensiamo a nominare subito un nuovo responsabile. Ma no, Remo, ma ci sei tu. No. La responsabilità di quello che sta per succedere io non la voglio. Scegliamo un'altra persona. Una persona di polso. L'avvocato. Io? Lei rifiuta? No. In linea di massima no. Però vedete, io non approverei una decisione così avventata come quella di opporsi alle autorità. Ecco, sentiamolo il parere dell'avvocato. E lui se ne intende, effettivamente. È una triste competenza la mia. Io amavo una sola cosa sopra ogni altra. La mia città. Sentinella dell'Adriatico. Patria! ti marinai e ti montanari. E no, no, lo so che non la rivedrò più. Ed è per questo che vi posso dire che noi che ce ne siamo andati da Pola, signora, stiamo male. Stiamo malissimo, soffriamo di nostalgia, abbiamo perso tutto, ma siamo vivi e liberi. Mentre invece di quelli che sono rimasti lassù non si sa più niente. E forse è meglio non sapere via. Allora che cosa ci consiglia, avvocato? Sì, lei che farà? L'unico bene che mi rimane è la libertà, ecco. E io non intendo metterla in pericolo contrastando senza speranza i dettami dell'autorità. Ma non è meglio se ce ne andiamo? Ecco. Io continuo a caricare il camion. Bravi, andate, il camion aspetta, sbrigatevi. Sì, sbrigatevi. Picciate da me, Malona. Questo per avere ragione di che abbia Dio per me Dio. Vieno. Giorgio, devi dire qualcosa. Dilla una buona volta. No. Io volevo dire che sono pronta. E se qualcuno ha bisogno di aiuto, non ci abbiamo bisogno di niente, Ellie, grazie. Ai figli miei ci sono andata da sola. Vabbè, tutti siamo già pronti, su. Visto che ha tanta buona volontà, signorina, dia una mano a mia moglie che non si ritrova. Ah, voi con quale camion partite? Con l'ultimo, ci vediamo al nuovo campo. A presto. Arrivederci, Remo, e grazie, pure da parte di mia moglie. E anche lei, avvocato. E bravo l'avvocato! Che fa quella strega di Piera che aveva messo con le spalle al muro? Quando vuoi qualcosa dagli italiani, devi nominare Pola e Trieste. Non capiscono più niente. Oh, ma poi mi è piaciuto pure, avvocato, l'argomento della libertà. La gente meno sa cos'è e più ci tiene. Beppe, ha fatto difficoltà a darti la busta? No, no. Nessuna difficoltà. Anzi, quello ha chiesto rinforzi. Sì, lo so. Ma non sono in contatti. No, vi pagherò. Nel pomeriggio riscuoto a evacuazione compiuta. Alle 4 lo benissimo di Piazza del Popolo? Intanto dia un'occhiata a queste carte e mi dica se è tutto in regola. Sì. È una dichiarazione consensuale. No, no, pare che non manchi niente. Ti sposi, eh? Chi parla di sposare invece di prendere posto sui campi? Brigadiere, la polizia deve fare in modo che lo sgombero finisca anche prima dell'ora prefissata. Da quando in qua prendo ordini da sera. Fate presto! Presto! Montate sui campi, ricordo, senza i vostri stracci! Tu perché sei ancora qua? Non si è visto Pippo, lo aiuto con il bagaglio. Sbrigati! Siete sordi! Avanti! Montate sui camion! Professore, cercatevi un camion alla cavalcheria, io vi raggiungo. Piace più vedere riprodotta la propria faccia. Il mio rollino è già tutto impressionato. Ed nemmeno della mia vita. Sono stato il protagonista. Bene! Bene! Tutto bene! Tutto bene, tutto bene. Apportate soldi? Dammi un attimo il consenso, devo rivedere una dicitura. No, va benissimo così com'è. I soldi. Guarda lo scemo. Manca la firma. Quella ci vuole un attimo a metterla. Ti procuro un passaporto per la Spagna, dove ho un paio d'amici disposti ad aiutarti. Rimandiamo Nora in collegio. Vedi questa ragazzata, se ne riparla tra qualche anno. No, no. Lei deve osservare i patti, così come li ho osservati io. Non ho neanche detto a Nora che per avere il suo consenso ho lavorato per lei. Ma non è una ragazzata. Me la sposo. Firmi su. E premura hai di metterti un cappio al collo? Avevo capito che tirava aria di festa quando ho visto la Chevrolet. Hai il papiro? Sì. Ma c'è dell'altro. È venuto a chiedermi di non sposarti. Non è esatto. Ho soltanto proposto di rimandare il matrimonio. Sì, di rimandarlo di 3 anni, magari. Ma perché? I soldi sono di Nora, presto o tardi ce li deve dare. Con i miei soldi lui si... ne avrebbe potuto usare per tutti i suoi compiti. Mia madre è morta prima di aver capito con chi si era sposata. Con i miei soldi lui si è mantenuto la palestra, la cantina, i suoi libri. Non ha mai scritto una riga sincera, solo formule. E per un pezzo nessuno se n'è accorto, ma adesso cominciano ad aprire gli occhi. Abbiamo un nuovo critico. Sono cresciuta, Barzilai, e non voglio più aspettare per avere quello che è mio. Ascoltami, che sono già passato sotto quella porta. Non sposare una donna ricca. Alla fine il vantaggio è sempre di chi compra. Prendi quello che ti offro io e resta libero. No, no, tengo Nora e le regalo lo check. Ti conveniva tenere lo check. È la tua eredità. Più qualche altra cosina che dovevo a lui. $400,000. Non mi fai più l'elemosina, Barzilai. Io oggi mi sposo e tu oggi tiri fuori tutto il mio denaro. L'ho investito. Cosa? In un affare che frutterà parecchie volte il capitale, ma col tempo. Quanti giorni gli occorrono per ritirarlo? È assurdo, se mi ritirassi perderei la fiducia dei gruppi finanziari, ogni cosa andrebbe a monte. Sì, sì, basta che io abbia i miei soldi. Ma sono soldi investiti senza contropartita, ho dovuto sostenere le prime spese, spese molto alte. Lo racconterà in tribunale. Io ho diritto di accedere all'eredità per altri 3 anni. È un mio diritto e lo faccio nel suo interesse. Lo so io qual è il mio interesse. Denaro di Nora, il solo che avessi sotto mano! Figli miei, non mi resta che incamminarmi verso l'espiazione. Sono certo che mi comunicherete l'esito di questo matrimonio così ben assortito. Aspetta, aspetta, di che affare si tratta? No, la mia impressione è che stia cercando ancora di occuparmi, scusate. Io voglio sapere dove si trova questa miniera d'oro! Qui. Cosa? Sei azionista di una società per il valorizzamento dell'E42. Stamane abbiamo posato la prima pietra. E posso sapere cosa consiste l'affare? Chiedimi perché il mondo guarderà Roma nell'anno del mezzo secolo. Non è nell'interesse di tutti che vengano costruiti alloggi per centinaia di migliaia di persone? Non ti sembra un affare l'appalto per un'impresa dove giochi, spettacoli, mostre diano un'immagine seducente della vita di questo emisfero? Idee simili non vengono a chiunque, e arricchiscono chi osa realizzarle. Capitali di 8 stati vi concorrono. La riconoscenza dei poteri più alti pioverà su di noi il giorno in cui il primo ospite, sceso dalla metropolitana, ammirerà il nuovissimo Olimpo della libertà e della fede. Quanto ingegno sprecato, Barzilai. Ma da dove sbuca questo pipistrello? Non avevi detto che erano andati via tutti? Non si è più visto nessun cane. Venivo a informarmi da Remo. O è a voi che bisogna chiedere informazioni? Stavo ascoltando! Un vecchio vizio preso a scuola, signorina. Professor Curbastano, ma sì, chissà quante volte l'ha insegnato i suoi allievi che il silenzio è d'oro. È un'offerta? Ma te l'ha già fatta. Elle! Entra! Gli altri le mannate, Demo. Così aspettate che tornasse. Non te ne sei mannate, capito? Che ti dovrei fare adesso? Spero per te che la tua sia soltanto incosciente. Cosa hai saputo, Pio? Vengo da là. Con la bicicletta dei ragazzi. Ho attraversato tutta Roma e sono arrivato al Flaminio, che era sempre notte pesta. Palazzi, pulizia. Meno male, va, professore, sono il solito San Tommaso. E mi facevi i conti. In quel giardino i miei figli andranno a giocare con la madre. E là la piera si dovrà pettinare prima di uscire. Ma intanto il campo. Smonto dalla bicicletta e l'appoggio a un muro. Passa un ferroviere, andava a testa bassa. Io gli domando, lui mi dice dietro il muro. E l'entrata, gli dico, segui il muro e se ne va. Sono entrato dal varco e mi è venuta incontro una ventata d'aria puzzolente. Campo Parioli, un'infilata di baracche e marce che si reggono l'una con l'altra. Cercavo a tastoni. Poi, all'improvviso, è uscita da una di quelle tane una donna. Ha detto soltanto: eccoli, arrivano! A qualcuno che stava dietro. Io non ce la facevo a interrogarla con tanto rancore, mi guardavano gli occhi suoi. E gli altri indietro muti, le donne con i bambini in braccio. La nostra andata là sarebbe stata un disastro, professore, per noi e per loro. Il campo è pieno zeppo, ci stanno malattie. Ho anche visto i posti che ci hanno riservato. 10 baracche improvvisate dal genio e le piantonano per impedire a quelli là di occuparli. Dovremmo dormire a gruppi di 100. Ma se non c'è nemmeno la voce in mezzo ai castelli, almeno è provvisorio, ho chiesto. Dopo faranno, costruiranno. Mi rilevano niente, professore. Come sono montato in bicicletta e ho rifatto la strada, io davvero non lo so. Ma pensa al tempo, la fatica che ci vorrà adesso per riportare qua i nostri, mentre qualche giorno fa avremmo potuto informarci, parlarne con un giornale, farci valere! Questo posto ci appartiene, in fin dei conti non è di nessuno! No, Remo ha scoperto che una società privata sta comprando dallo Stato le 42 per farne l'esposizione universale. Come prima. E attorno alberghi, una grande ospitalità è alle porte. E noi per questo dovevamo andarci. Ma perché non ci hai detto niente? Non ci voglio! La casa a 300 famiglie per fare più bella e più ospitale l'Italia! E che è venuto a fare questo? Un altro articolo come quello che non gli hanno pubblicato? È lui l'organizzatore. Lei non sa contro chi si mette. Io non posso sentirgli infiorare di belle parole una speculazione ignobile! I disgraziati che stavano qua! Ma quella è zavorra! La società, per andare avanti, non può aspettare che tutti si mettano al passo. Siamo noi più forti, la battaglia non vi conviene. Sentite quello che vi propongo. Entro un anno. Entro un anno, sì. E dove sono finite le famiglie che stavano al Colosseo? O quelli della Stiglia dei Bordi? Almeno lei dovrebbe capirmi, professore, di che sognava la grandezza dell'esposizione. A mia età si capisce che è una vita umana. La sorte di una sola creatura è il tesoro più grande di qualsiasi grandezza. Chi non reclama il posto che le spetta? Non lo sente nell'aria che è arrivato il momento di ricominciare? Purché si stia attenti a non dare alla cosa il suo vero nome. Chi non è stato idealista da giovane? E cosa c'è di più ridicolo che esserlo da vecchi? Forse il tempo mi ha conservato così perché mi riservavo un ultimo dovere. La nazione deve sapere! La nazione! Alla nazione importa soltanto sapere che qualcuno costruisce, che qualcuno comunque la spinge avanti. La capitale della cristianità non appartiene forse al mondo intero? Roma lo sa. Il forestiero è il suo cittadino ideale. I romani non ne sono gelosi, tutt'altro. Cosa farebbe senza il forestiero una città dove non ci sono industrie? Non fatevi avvocato di Roma. L'errore della nostra generazione è stato di voler partire da qui. E noi non ripeteremo questo errore. Forse no, se avrete un testimone che me lo ricordi. Perciò io vi dico, l'esposizione deve restare con me. Sulla memoria di coloro che nei secoli hanno accettato la morte per dare alla patria una grandezza fittizia, giuriamo di non riprendere i lavori dell'esposizione finché all'ultimo italiano non sarà assicurata una vita libera e decente. Popolo curvastro, quante cose facciamo per loro. Qua dentro i plebei siamo noi Barzilai. I nostri simili hanno fatto del popolo quello che è, ed è noi stessi che disprezziamo in lui. Ma lei crede davvero di conoscere tutti questi uomini? Io potrei aprirle gli occhi almeno su uno di loro. Che cosa avete da dire, Soremo? Quello che potrei dire su chiunque dopo avermi incontrato. Chiunque, indistintamente. Lo faccio tacere, professore. Vuole metterli uno contro l'altro. Lo faranno da soli alla prima occasione. Avanti, Remo, sbattimeli fuori. Caro, indietro! Indietro! Mogli, chiama le guardie. No! Resta inteso che Remo viene con noi. Ma se neanche lui vuole venire, avanti, dammi quella carta da volo. Non dargliela! Va bene. Mi servirò da solo. Ma... grazie. Devo andare al collegio troppo presto, ma si rimedia subito! Indietro, Tendo! Poi... stavo a fare da solo! Uscite tutti! Forza! Fuori! Fuori tutti! Deve essere costituisca spontaneamente. Uscite uno alla volta con le mani alzate. Vai! E voi seguitelo! E non parlate per ora! Ci penso io! Non possiamo lasciarci arrestare! I nostri sono l'altro capo della città, non sanno niente! Non avete alternativa! Pio, dammi la pistola! Pio, dammi la pistola! Tanto sono già incriminato! No! No, non mi stai guardando! Avvicinate, sono armato! Ma io potevo aiutarvi! Se vuoi esserci utile, raggiungi la ragazza e sorvegli. No, io vorrei fare di più! Io sto dalla vostra parte, io ho letto, ho studiato... Io mi sono convinto! Che bisogna fare? Rioccupare l'esposizione. Io! Ma come? Sotto i nostri piedi c'è un arsenale. Dove? Nella botola, armi e munizioni. Chi ce l'ha messo? E che ne so? Ho sentito lo zio di Bartali che ne parlava con me. In calma, per le... No, vi supplico, non fate pazzia! E corriamo al comune! Otterrete certamente l'intorno. Sarà per poco e si renderanno conto o costruiranno altri alloggi! Va bene, questo non è il momento della violenza! E se ne vanno a realizzare! Compromettere la cosa per risolvere un caso personale! Vattene, signorino! Non sporcarti le mani! Eppure il mondo ha conosciuto epoche di pace! Ma proprio in questa dovevo nascere io! Il mondo rimpiange epoche di pace che non ha mai avuto! Il silenzio è la pace che volete! E tanto il mondo grida fregoli nel parto! Vattene! E alza le mani se vuoi il trattamento dei paure. Il cerchio si è stretto. Dobbiamo raggiungere i nostri prima che Tamburini riceva ordini e rinforzi. Io provo ad arrivare alla bicicletta, non c'è altro mezzo. Dove l'hai lasciata? Dietro il cespuglio. Io, passa dalla botola. Il tunnel ha un'altra uscita. Voi tenete duro. Finché c'è qualcuno di noi qua, questo rimane un campo profondo. Io siamo solo tre! Siete quattro. Pazzo, prego! L'esame di coscienza lo finirai più tardi. Dirò che sono stato io a ucciderlo. Sì, te piacerebbe. E che altro dovrei fare? Impedire che si mettano in tasca l'esposizione, visto che gliel'hai piegata e incartata. In mia assenza comanderai tu. Ma se sono la colpa di tutto! L'occasione che gli era toccata, poteva toccare altro di noi. E non so chi l'avrebbe respinta. Allora, che decidete? Ellie, tu. La maggioranza ha vinto. Che devo fare? Io vorrei chiamare indietro gli altri. Voi tenete l'esposizione fino al nostro arrivo, te la senti? Vada, che Peppe è l'avvocato, lavorano per lui. Io. Questi sono 4.000 lire che avevo messo da parte per fare un viaggio in Carfagnana a cercare dove si torturare. Il 12 luglio è l'anniversario. Nel caso mi imprigionassero, potresti andarci tu. Rivolgiti alle persone indicate e se lo trovi, se trovi il posto, ricordati come è andata a finire, nient'altro. Lo faremo insieme, grazie, professore. E torneremo a pescare a Ponte 4K. Quanto ci piega ad uscire dal tunnel? Circa 2 minuti. Contate. Poi sparate in aria un paio di cartucci. Per distrarre gli agenti mentre prende la bicicletta. Aspettiamo 2 minuti. Io non vorrei che passassero all'iniziativa. Ma no, no, no, no. Tamburini sa che noi dominiamo tutti i loro movimenti. Tamburini chiederà ordini. E gli ordini saranno di averci coi guanti. I soci di Barisiani muoveranno cielo e terra perché la sua morte e lo scombero non diventino un affare di Stato. Cercheranno di averci con le buone. Tutto ciò richiede tempo. E intanto Pio pedala. Grand'uomo Pio. È stato lui a salvarmi dopo la disfatta. Ero tornato a Roma per cercare aiuto, ma nessuno mi era rimasto amico. Verso sera su un ponte dei ragazzi buttavano le lenze al fiume e mi tornò in mente un mio giovane compagno di pesca. Compagno. Discutevamo sempre di politica e non ero mai riuscito a convertirlo. Mi raccontava che quando ero in bolletta di domenica veniva a pescare al fiume al Ponte Quattro Capi, guardai la targa, era quello. Aspettai la domenica dormendo sotto le arcate finché una mattina lo vidi spuntare. Non mi domandò niente. Si scusò di non potermi ospitare perché aveva perso casa. e mi condusse qui. Ehi, nel palazzo! Che volete? Vogliamo parlamentare. Che ho detto? Coi guanti! Va bene! Parlamentiamo! Ci incontreremo a mezza strada disarmati! No, prego! Fanno venire su, questa la tutta. Vi chiediamo di mandare qua il vostro uomo! Accettate? Accettiamo! Voi dovrete mandare uno stato! Andrò io! Cercherò di scoprire gli ordini che hanno! Accettate? Sì! Lo scambio dovrà venire bene in vista! I due uomini dovranno andare e tornare contemporaneamente! A passo normale! Accettiamo! Per lo scambio proponiamo il tutto per lo stradone! Accettiamo! Bene! Mandate subito lo stato! Subito! L'ostaggio esce! Professore, vada! Ma stia in guardia! Tirare in lungo! Professore va benissimo. Tamburini invece sembra avere fretta. Prepariamoci all'idea che venga a darci un ultimatum. Per fortuna qua siamo nel punto più alto. Oh, serve che uno di lui vada al lavatoio a sorvegliare. Vado io. Abbiamo ottenuto un'oasi per due giorni. Io, un ufficiale, due ascari. E... Pippo, prometti di usare quel mitra soltanto se costretto. Non fare pazzie. Per questa mattina... avevo il programma di peggio. Brigadiere, quasi la pistola, brigadiere! Bella coppia. Immagino che il fotografo vi avrà fatto un'istantanea. Dov'è? Si costituirà entro oggi. E voi altri? Noi non c'entriamo. Anche lui lo ha ucciso involontariamente, era per difendersi. Certo, certo, innocenza generale. Esce. Dove avete rubato le armi? Da nessuna parte. Le tenevamo in ricordo dei tempi. Che tempi? Quando a noi ci mandavano per il mondo, brigadiere. Ma lei non può ricordarsi. Lei faceva il servizio ai mercati, lei. Tu vuoi il bis della lezione di marzo? Ognuno c'ha il suo punto debole. Il suo è l'anulare della mano sinistra, mi sembra. Dalla centrale ho avuto ordine di proporvi la resa immediata. Altrimenti? Altrimenti si vedrà. Ai signori che hanno dato l'ordine, non preme di catturare i criminali. Quanto cogliere l'occasione per mandarci via di qua. Ma è questo che non vogliamo. Noi siamo innocenti. Allora costituitevi, qui che fa? Ci stiamo di casa, brigadiere. È un campo profughi questo. Bestie, ma che sperate? Lo sai tu che cosa distingue gli uomini dalle bestie? La speranza. E alla speranza noi lo rinunceremo. Volete l'esposizione? Venitevela a prendere. Avete 10 minuti per uscire. Vada, Tamburini! Va verso lo stradone, Henry. È quasi al punto dello scambio. Però non vedo il professore. Ah, ecco, ecco. Ecco lo scambio. Si fermano a parlare. Ma che hanno da dirsi? Oh, si sono mossi. Però deve esserci qualcosa. A me non piace l'andatura di Tamburini. Ma chi ha? A chi fa segno? E perché sbanda? Brigadiere, stia in patti, brigadiere! No! Coraggio, Luca. più giovane è affogato nel lavatoio. Doveva essere già ferito quando c'è caduto dentro. Ora lo stiamo ripescando. Ah, è arrivato il cronista con la jeep della centrale. Stampa indipendente. Sì, componente nella bandiera la salma del povero Belloni. Aspettiamo visite ufficiali. Eccomi, sono da lei. Si conferma che Barzilai è stato ucciso per difendere la figliastra da un ricatto. Ricatto matrimoniale, sembra, con estorsione di consenso. Abbiamo la deposizione del giovane legale della ragazza. Dunque ci troviamo di fronte ad un episodio di delinquenza comune. Aggravato dalla resistenza feroce dell'assassino e dei complici. Faccia sapere ai suoi lettori che le forze dell'ordine hanno avuto un morto e 3 feriti. Ma brigadiere, perché non si sono arresi? Pensi chi erano? Un assassino, un processato politico, un ricattatore. La sua amante è un sovversivo ucciso mentre tentava la fuga. Gente incallita. E alla base di tutto c'era un traffico d'armi. Traffico d'armi. E lei? Lei come si chiama? Brigadiere Settimio Tamburini. Guardi, devo avere... Ecco, sono io con mia moglie e il bambino, se le interessa per il giornale. La ringrazio, brigadiere. E... complimenti. Facciamo il nostro dovere. Hai mostrato tu al professore il cadavere di Pio? Ormai mi aveva visto la bicicletta. Ti avrei sparato! Ma in fondo è bastato chiudere la bocca al vecchio. Forse resistevano nella speranza che Pio chiamasse gli altri. Lei li avrebbe convinti ad arrendersi, diciamo... Non avevo ordine di convincerli ad arrendersi. Non era venuto qui a parlamentare. Ero sicuro che non si sarebbero arresi finché speravano in Marino. Ho parlamentato per rendermi conto di quanti erano, che armi avevano, cosa intendevano fare. Volevo giocarla bene la prima briscola della carriera. Altro che traffico d'armi. Qui c'è sotto qualcosa di grosso. Che cosa? Non lo so e preferisco non sapere. Quelli che sapevano l'hanno pagata cara. Tientelo per detto. Beh, ma le indagini, le famiglie si muoveranno e i giornali... Si muovono pure. Non troveranno che un fatto di cronaca nera. In questa direzione, a chilometri da noi, c'è Campo Parioli. Volevano rimanere quassù a continuare il loro saccheggio idiota che impoveriva lo Stato senza arricchirli. Stanno bene dove stanno. Forse per noi inizia un nuovo periodo. Vuoi scommettere che riprenderanno i lavori? L'esposizione può diventare una cosa importante. E noi con lei. Che sarebbe ora? Rimani di guardia finché arriva il furgone.